Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Veneto, falso allarme per pacchi sospetti in regione, attentato di Reggio Calabria per i magistrati, la matrice è mafiosa. Yemen, battuto, uccide due miliziani, inflazione 2009, il dato più basso da 50 anni. In studio vi parla Daniele Biacchesi su Radio 24, in primo piano il falso allarme sui pacchi sospetti recapitati in queste ore, che sarebbero stati recapitati in queste ore alla sede della Regione Veneto. Tutto falso dunque, Silvia Menetto. Buongiorno, sì, in effetti è stata una mattinata in cui c'è stata parecchia tensione alla sede della giunta regionale. Questi quattro pacchi erano tre grandi buste e un pacco di cartone consegnati dallo stesso vettore in mattinata. Lo scanner aveva rivelato dei fili elettrici all'interno e quindi una parte del palazzo è stata fatta evacuare, una cinquantina di persone è dovuta uscire dal palazzo della regione, dopodiché sono stati chiamati gli artificieri, uno di questi pacchi è stato fatto brillare e il risultato è stato che all'interno si trovavano dei caricabatterie universali. C'è da dire che per fortuna è andata a finire tutto così e che era ancora tempo di regali praticamente in Regione Veneto dopo la pausa del Natale. Questi pacchi erano stati inviati dall'Enel, nel quarto pacco, quello differente, c'era invece una lampada e quindi tutto è rientrato nella normalità, anche se il tempo non ha aiutato perché qui sta nevicando, c'è acqua alta e quindi le persone che sono uscite certo hanno avuto dei bei disagi. Per il momento è tutto. Grazie a Silvia Menetto, naturalmente. Tutto questo accade in un momento abbastanza difficile dove l'allarme terrorismo è abbastanza alto, ne parleremo tra poco, mentre invece è caccia i responsabili dell'attentato contro il Tribunale di Reggio Calabria. È appena arrivato a Reggio Calabria, inviato dal Ministro dell'Interno Roberto Marone, dal Capo della Polizia Antonio Manganelli, il Direttore della Direzione Centrale Anticrimine Francesco Gratteri, che incontrerà oggi in un vertice previsto nel pomeriggio alla prefettura magistrati e investigatori impegnati nelle indagini sull'ordigno collocato davanti all'ingresso della Procura Generale del capoluogo calabrese. Una lunga e cordiale telefonata c'è stata intanto questa mattina tra il Procuratore Generale di Reggio Salvatore Di Landro e il Ministro della Giustizia Angelino Alfano. Nel corso del colloquio il Ministro ha espresso al Procuratore Generale sostegno e fattiva partecipazione, assicurando tutto l'aiuto necessario. Giovedì sarà a Reggio Calabria il Ministro dell'Interno Maroni e il Ministro della Giustizia oggi ha invitato il Procuratore Generale e tutti gli uomini del suo ufficio ad andare avanti. Il Procuratore Generale Di Landro fuga dal suo canto ogni dubbio sulla matrice dell'attentato. Per dimensioni, caratteristiche, per la professionalità degli attentatori, ha affermato oggi, sulla matrice mafiosa non credo ci possano essere dubbi. Filippo Veltri, GR24, il sole 24 ore, Reggio Calabria. E tutto il mondo politico condanna l'attentato, esprime vicinanza e solidarietà alla magistratura. Una nota polemica viene però dal capogruppo del PD in commissione antimafia, Laura Garavini. Subendo la magistratura attacchi continui, purtroppo si viene a creare un clima dove anche eventi così drammatici e così gravi, come dire, danno l'impressione che purtroppo ci sia, siano frutto di questo clima che si è venuto a creare, un clima che tende ad indebolire la magistratura e gli attacchi di solito purtroppo ormai ci siamo abituati a doverli subire verso la magistratura da parte delle istituzioni. La magistratura deve essere sostenuta su tutti i fronti e quotidianamente. Dichiarazioni surreali, replica il portavoce del PDL Daniele Capezzone. Francamente è surreale che gli esponenti del Partito Democratico neghino la realtà. Negli ultimi 18 mesi noi abbiamo avuto 20 dei primi 30 superlatitanti di criminalità organizzata arrestati, 40 dei primi 100 arrestati, oltre 4 miliardi di beni immobili sequestrati, oltre 1 miliardo di euro in denaro sequestrato. Sono risultati senza precedenti che si devono all'impegno delle forze di polizia, all'impegno della magistratura, ma all'impulso politico di un governo che ha scelto la lotta alla criminalità come sua priorità assoluta. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, si dice molto soddisfatto di come il mondo politico ha commentato il suo appello sulle riforme nel discorso di fine anno. Ma sarà così? A noi sembra che i due schieramenti siano effettivamente più lontani al dialogo. Elisabetta Fiorito, in diretta. Sì, il capo dello Stato Giorgio Napolitano esce dal caffè Gambrinus della sua Napoli per confessare di essere molto soddisfatto delle reazioni al messaggio di fine anno, reazioni a quelle riforme condivise che il Presidente della Repubblica auspica per rendere più efficace il funzionamento dello Stato, un messaggio subito raccolto dal Premier Silvio Berlusconi, ma che nei fatti, come dicevi tu Daniele, è ben lontano dall'essere raggiunto. Il Presidente del Consiglio teme che il segretario del PD Pierluigi Bersani si tiri indietro e Bersani ha già messo i paletti su possibili leggi ad personam sulla giustizia. Ma non ci sono solo gli scontri tra maggioranza e opposizione, guerra anche all'interno degli schieramenti. Sulle riforme il PD attacca i toni aspri dell'Italia dei Valori, per Enrico Letta il partito di Di Pietro è il migliore alleato di Berlusconi. A complicare poi la situazione ci sono le elezioni regionali, ancora nel caos il centro-sinistra in Puglia, mentre nel centro-destra Fare Futuro, la fondazione vicina a Gianfranco Fini, attacca Vittorio Feltri, una polemica innescata dalla candidatura di Renata Polverini nel Lazio, appoggiata dagli ex DN. E le riforme rischiano di allontanarsi sempre di più. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie, e sullo sfondo, come avete sentito, di tutti questi scontri politici, delle fibrillazioni all'interno dei due schieramenti, ci sono le imminenti elezioni regionali. Per il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani, il ritorno oggi da New York rischia di essere funestato da due incubi che si chiamano Lazio e Puglia. Nelle due regioni il PD ha ingarbugliato la matassa delle candidature e delle alleanze per le regionali. In Puglia ha fallito il via libera al sindaco di Bari Emiliano, candidato gradito all'UDC. Il vertice di oggi tra dirigenti nazionali e locali del partito deve trovare una via d'uscita e scegliere tra l'appoggio al presidente uscente, Nichi Vendola, rompendo così con il partito di Casini, e l'individuazione di un nuovo nome su cui realizzare l'intesa con i centristi, che intanto però sembrano essersi stufati di aspettare e guardano dall'altra parte. Il deputato UDC Angelo Cera ha parlato oggi di fallimento dell'intesa tra D'Alema e Casini. Poi c'è il Lazio. Qui il PDL ha schierato Renata Polverini, mentre i dirigenti del PD sono in conclave da settimane per trovare l'erede di Marrazzo. Gli alleati sbuffano e ora anche mezzo partito si ribella, chiedendo le primarie. Ieri lo ha fatto, candidandosi, anche un outsider come Renato Nicolini, l'ex assessore capitolino, ideatore dell'estate romana tra anni 70 e 80, che così motiva la sua scelta. Credo che tutti lo trovino paradossale il fatto che sia sottoposto ad elezioni primarie aperte a tutti i cittadini la scelta del segretario nazionale del Partito Democratico, mentre invece, come dire, si riserva all'apparato di partito la scelta dei candidati presidenti, che poi governeranno i cittadini. Insomma, è un concetto di democrazia un po' singolare. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Restiamo nella pagina politica. Il sondaggio di oggi di Radio 24 riguardava una battuta dell'eurodeputato De Magistri su Berlusconi. Io sarà che frequento da un po' l'Europa, però questo paese sta anche un po' perdendo l'umorismo. Era una provocazione, una cosa scritta sul blog, ma che in fondo potrebbe convenire al premier Silvio Berlusconi. Luigi De Magistris fa una parziale retromarcia sul suo personale lodo proposto qualche giorno fa. Suonava in pratica così: Berlusconi vada in esilio all'estero in cambio di impunità giudiziaria. Inevitabile la bufera politica, oggi l'ex magistrato parla di scarso senso dell'umorismo, ma i nostri ascoltatori approvano. In fondo la proposta è giudicata positivamente dal 60% di chi ha votato il sondaggio, anche se lo stesso De Magistris ribadisce. Berlusconi va sconfitto politicamente, quello è un post scritto sul blog, guardi, io volevo anche smitizzare il lodo, siccome il lodo è diventato uno strumento di utilizzo illegittimo della legge, come il lodo Alfano che non andava promulgato, ho detto se stiamo a questo punto ve lo propongo io un lodo, e quindi è una provocazione di questo tipo. Anche io sono fermamente convinto che Berlusconi va sconfitto politicamente, non per via giudiziaria o per altro tipo di strade di questo tipo. Bianconero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Le forze di sicurezza yemenite hanno effettuato un blitz a 40 km a nord della capitale Sana'a, una località dove si nascondeva un sospettato di essere il leader di un gruppo affiliato ad Al-Qaeda. Così due miliziani dell'organizzazione terroristica sono stati uccisi, altri tre feriti durante questi scontri. Ieri il consigliere antiterrorismo del presidente Barack Obama, John Brennan, che era stato intervistato da CNN, aveva detto che al momento non c'è alcun piano per l'invio di truppe americane in Yemen per combattere il terrorismo islamista. Ma sta di fatto che a causa delle minacce provenienti da Al-Qaeda, Gran Bretagna e Stati Uniti lasceranno chiuse le loro ambasciate a Sana'a. Giappone e Francia hanno deciso di chiudere le loro rappresentanze diplomatiche. L'ambasciata tedesca nella capitale yemenita ha chiuso per motivi di sicurezza la sezione consolare. Il resto della rappresentanza è aperto al pubblico, hanno riferito fonti diplomatiche. E Roma ha deciso diversamente, aveva spiegato la Farnesina, lo ha fatto anche nel giornale radio delle 12 ai nostri microfoni l'ambasciatore italiano a Sana'a, indicando di voler coordinare le proprie iniziative con l'Unione Europea. Nelle prossime ore comunque il Ministero degli Esteri consulterà a Madrid il presidente di turno dei 27. E sulla nuova frontiera della lotta al terrorismo sentiamo l'analisi di Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Lo Yemen è un rifugio ideale per i terroristi. Il governo è debole e impopolare e sono in corso almeno due guerre civili, una tra la maggioranza sunnita e la minoranza sciita, aiutata dall'Iran, e l'altra tra le tribù del nord e quelle del sud del paese. Il lungo confine desertico con l'Arabia Saudita è di incerto controllo e luogo di guerriglia. Per di più, nello Yemen affluiscono a migliaia i profughi della guerra del disordine somalo, anch'essi contagiati dal virus dell'estremismo religioso. Intervenire in questa realtà non è facile. Già da tempo sono in azione piccoli gruppi di forze speciali, americane e britanniche, ma ora la situazione rischia di ampliarsi e di fare un salto di qualità, perché il presidente americano Obama non può permettersi di ignorare il ritorno di fiamma terroristico sul suolo americano. All'ordine del giorno per ora non c'è alcun invio di truppe che rischierebbero di rendere la situazione ancora più incandescente, ma cercare di rafforzare il governo di Sana'a potrebbe essere almeno tanto difficile quanto lo è rafforzare il governo afghano. Non è possibile limitarsi a correre dietro ad ogni mutamento tattico o logistico della galassia terrorista. È necessario riprendere l'iniziativa, come si cerca di fare con grande difficoltà in Afghanistan e in Pakistan. Ma questo significa affrontare di petto questioni difficili, dall'Iran alla Somalia, e i governi comprensibilmente esitano. Bene, questa è l'analisi del nostro Stefano Silvestri. È stata rinviata una missione che un gruppo di parlamentari europei doveva effettuare in Iran dal 7 all'11 gennaio. Lo ha reso noto quest'oggi portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Intanto la televisione iraniana ha confermato che il 27 dicembre scorso, durante gli scontri, oltre a 8 morti, sono stati arrestati alcuni stranieri. Naturalmente non hanno comunicato i loro nomi, quindi non sappiamo chi sono, non sappiamo se sono giornalisti oppure altre persone che erano state fermate durante gli scontri dello scorso 27 dicembre. Ora ci fermiamo per la pausa della viabilità e riprenderemo nuovamente con l'economia, con la politica estera, con il calcio. 13-16 minuti, 18 secondi, torna il racconto sulle notizie principali di oggi. È risultato falso l'allarme per pacchi sospetti alla regione Veneto per l'attentato di Reggio Calabria. I magistrati dicono che la matrice è mafiosa. La battaglia con Al-Qaeda nello Yemen, l'esercito che uccide due miliziani, chiusa poco fa l'ambasciata a Sana'a della Francia, inflazione 2009 il dato più basso da 50 anni. E proprio da questa notizia ripartiamo con le notizie, perché l'indice dei prezzi al consumo ha registrato nell'anno appena concluso una variazione del più 0,8%, segnando un record dal 1959, quando era stata pari a meno 0,4%. Nel 2008 invece l'inflazione era salita al 3,3%. Lo rende noto l'Istat, aggiungendo che anche l'indice IPCA, quello usato in sede europea, ha registrato un aumento dello 0,8% rispetto al 3,5% del 2008. Viene da Confcommercio un primo bilancio dei consumi durante le festività. Niente cappotti, tailleur e abiti da uomo, i cui acquisti sono stati rinviati ai saldi appena cominciati, e un maggior ricorso ai mercatini, un parziale recupero delle vendite dei libri, un lieve calo dei prezzi dei ristoranti. Ma nel complesso i consumi durante le feste di Natale non hanno registrato crolli, ma un andamento in linea con la debolezza della domanda interna e con qualche timido segnale di ripresa. Veniamo alle notizie internazionali, veniamo alle indagini sulla tragedia di 2 anni fa alle isole Los Roques in Venezuela. 4 gennaio 2008, esattamente 2 anni fa, un aereo decolla alle 9.30 del mattino dall'aeroporto di Caracas, diretto all'arcipelago Los Roques. Un volo di poco più di 30 minuti. Il LET 410 della Transavia trasporta 14 persone, tra cui 8 turisti italiani, di cui si perderanno per sempre le tracce. A pochi chilometri dalla barriera corallina e dalle isole del Gran Roque, infatti, il pilota manda un messaggio di allarme. Dopodiché l'aereo scompare. Non se ne sa più nulla. L'ipotesi delle autorità locali è un incidente provocato da un guasto a entrambi i motori. 10 giorni più tardi, sulla spiaggia di Falcon, a circa 330 chilometri dal punto da cui è stata segnalata l'emergenza, viene ritrovato il corpo del copilota. Dei passeggeri, del pilota e dell'aereo non si sa ancora nulla. I familiari dei turisti italiani scomparsi chiedono al governo che sulla loro tragedia non cada il silenzio e che le ricerche dei parenti possano riprendere. Sabrina Durante, sorella di una delle vittime. C'è stata una riunione il 23 novembre a Roma, anche con la parte venezuelana, dove ci sono stati degli accordi. È stato letto un progetto di ricerca e non sono neanche in grado di capire la grandezza di mettere in piedi una situazione del genere. Però io mi auguro, insomma, vista la disponibilità della parte italiana a partecipare insieme e vista la disponibilità dimostrata dai venezuelani all'incontro a portare avanti questa cosa, che l'inghippo sia veramente pratico di mettere in atto questa ultima fase di ricerche per trovarli, per portarli a casa. Alessio Maurizio, GR24, Il Sole 24 Ore. Il sovrano di Dubai ha inaugurato oggi il grattacielo più alto del mondo. Qual è il grattacielo più famoso al mondo? Forse molti di voi non avrebbero dubbi a rispondere correttamente: l'Empire State Building, alto 381 metri, che dal 1931 attira milioni di turisti a New York ed è rimasto il grattacielo più amato, anche dopo aver perso il primato di altezza nel 1973, superato dalla Sears Towers di Chicago con i suoi 442 metri. La gara verso il cielo prosegue e il primato è passato negli anni dalla Malesia con le torri Petronas e fino a ieri a Taiwan con i 509 metri del Taipei 101. Con l'inaugurazione di oggi, il grattacielo più alto del mondo è il Burj Dubai, 160 piani, 818 metri di altezza. Costruito in 5 anni e 4 mesi da una trentina di aziende arrivate da tutto il mondo, il progetto è costato più di 4 miliardi di dollari. Al 37esimo piano c'è anche il primo Armani Hotel del mondo, ma la lista dei record di questa meraviglia dell'ingegneria è molto lunga. Primati che vorrebbero affermare Dubai come una delle capitali del futuro, anche se l'inaugurazione arriva mentre l'Emirato vive la più grave crisi immobiliare della sua storia. Enrico Pagliarini, GR24, Il Sole 24 Ore. In questi giorni abbiamo sentito parlare tanto di quello che ci aspetta nel 2010, ma c'è un paese dove l'anno nuovo inizierà in realtà il 14 febbraio. Parliamo della Cina. I fuochi d'artificio di qualche giorno fa non devono trarre in inganno. In Cina il Capodanno occidentale viene ricordato solo per ragioni pratiche, mentre il cuore dei cinesi batte tutto per Chunjie, il Capodanno cinese appunto, la cui data varia di anno in anno e si situa sempre tra gennaio e febbraio. Quest'anno inizia il 14 febbraio e il 2010 sarà l'anno della tigre. Cosa ci si aspetta? Pechino, che ha retto bene all'urto della crisi grazie al pacchetto di stimoli straordinari all'economia, corrispondenti a circa 400 miliardi di euro, potrebbe trovarsi a fronteggiare alcuni problemi, come l'aumento dei crediti in sofferenza e un nuovo boom immobiliare che, a detta di alcuni, potrebbe innescare una bolla speculativa. La ripresa avrebbe potuto essere più stabile se le banche fossero state più attente, ha ammesso il premier Wen Jiabao qualche giorno fa. Secondo la tradizione cinese, l'anno della tigre è segnato da sconvolgimenti rapidi, tumultuosi e in qualche caso drammatici. Tutte eventualità che la leadership di Pechino, viste le recenti misure come quelle per arginare credito facile e sovrapproduzione, vuole scongiurare a ogni costo. Antonio Talia, GR24, Il Sole 24 Ore, Pechino. Veniamo alle notizie dal maltempo. Sono molte, ve le diamo in diretta, perché dopo la pioggia, il vento, le mareggiate, tocca alla neve. Come previsto, dopo una breve pausa è arrivato un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, praticamente su tutta Italia, con neve fino a bassa quota. In Liguria nevica anche sulla costa, un sottile manto bianco ha coperto le alture lungo le riviere. Nel Savonese nevischio dalle prime ore del mattino in alcune zone dell'entroterra, in particolare in Valmorbida, dove già nella notte le temperature erano scese di almeno un paio di gradi sotto lo zero. Per il Friuli Venezia Giulia la prevista ondata di maltempo è arrivata e sta nevicando a Trieste sul Carso, mentre sul resto della regione le precipitazioni sono in parte meno intense. In Val d'Aosta neve e freddo, con termometri sotto lo zero in tutte le località. In Veneto crollano le temperature minime, specie in montagna. Cortina d'Ampezzo si sono registrati questa notte a meno 15 gradi. Nevica nell'entroterra delle Marche, in Umbria, in Emilia-Romagna. Vediamo anche la situazione nelle isole. Dopo 3 giorni di isolamento sono ripresi questa mattina i collegamenti per Panarea, Stromboli, Ginosta, Filicudi, Alicudi. I turisti, alcune centinaia, sono rimasti bloccati nelle isole minori e hanno potuto fare rientro nelle rispettive città. Si sono poi normalizzati anche i collegamenti tra Milazzo, Vulcano, Lipari, Salina. Naturalmente in tutte le edizioni del nostro giornale radio vi daremo informazione sulla situazione del maltempo. Con il nuovo anno in arrivo importanti novità per la scuola, a cominciare dalla riforma delle superiori, le cui iscrizioni, lo ricordiamo, sono slittate a marzo. L'ha strenuamente voluta la riforma al ministro Gelmini, anche se l'iter parlamentare non è concluso, dal prossimo anno scolastico licei tecnici e professionali cambieranno volto. Partiamo dai licei. Saranno 6, artistico, classico, linguistico, musicale, coreutico, scientifico e delle scienze umane, e avranno meno ore, 27 nel biennio e 30 o 31 nel triennio. L'ultimo anno una materia verrà insegnata in lingua straniera. Al liceo scientifico è previsto anche un indirizzo tecnologico e al liceo delle scienze umane un indirizzo economico-sociale. Saranno attivati 40 licei musicali sparsi per il territorio nazionale. Meno ore settimanali anche negli istituti tecnici, ora sono 36, il prossimo anno saranno 32. I settori saranno ridotti da 10 a 2, economico e tecnologico, e gli indirizzi passeranno da 47 a 11. Quindi i professionali, che passeranno sotto l'organizzazione delle regioni, anche se non c'è ancora un accordo. Programmi e gestione del personale rimarranno comunque dello Stato. Anche qui taglio degli indirizzi, che passeranno da 27 a 6. Infine il doloroso argomento tagli. Come nel 2009 è prevista una riduzione di 40.000 docenti e 15.000 del personale ATA. Maria Piera Ceci, GR24, Il Sole 24 Ore. Il calcio, mercoledì riparte il campionato. Ai tifosi in crisi di astinenza il 2010 ha riservato una partenza con parecchie novità. Alla Befana tutti in campo quasi contemporaneamente, l'anticipo sarà da aggiungi un posto a tavola, ore 12.30 al Bentegodi di Verona. A pranzo pasta e fasoi, bollito di manzo e Chievo-Inter. Mourinho non potrà parecchiare per Eto'o, partito per la Coppa d'Africa, ma potrà tentare subito la carta Pandev, che arriverà soltanto oggi alla Pinetina. Ma non sarà l'unico volto nuovo di questo turno dell'Epifania. Complice il mercato aperto si rimescolano le carte. Luca Toni, in assenza della sindacato Totti potrebbe reggere sulle sue spalle l'intero peso dell'attacco della Roma a Cagliari. Il neoviola Felipe sarà pronto a guidare la difesa della Fiorentina nel derby con il Siena. Magari ci sarà qualche minuto per Beckham nel Milan che ospiterà il Genoa, mentre tra i rossoblù potrebbe esordire Suazo, proprio in quel San Siro che ha visto raramente da interista. Nella Juve che va a Parma invece la novità sarà in tribuna, dove tornerà a brillare la chioma candida di Roberto Bettega, trade union tra passato e futuro bianconero. Primo esame poi per una panchina nuova di zecca, l'Udinese di Gianni De Biasi, subentrato a Marino, cercherà i primi punti a Bari. Massimo Di Cenza, Gere 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura al cinema, un bilancio dell'ultimo decennio. Cosa resterà di questi anni 2000 nel cinema? Grandi produzioni fantastiche, fantascientifiche e horror, e poi sequel, saghe, trilogie, remake, almeno negli Stati Uniti. Harry, you must obey every command I give you. Harry Potter per grandi e piccini, capitoli su capitoli, ma anche Il Signore degli Anelli oppure Matrix, e persino i cartoni animati come Shrek, perché le idee non si sfruttano una volta sola. Poi Shrek baciò la principessa. Lei si trasformò in una bellissima orchestra e vissero per sempre felici e contenti. E in Italia i grandi incassi li fanno anche in tempi di crisi i cinepanettoni, termine che compare dal 2008 sullo Zanichelli per definire il tradizionale film comico di Natale, oppure le commedie, soprattutto dei soliti registi noti. Ma nel 2006 si registra il successo inatteso di Notte prima degli esami e con Fausto Brizzi comincia a far notizia la nuova generazione dei registi italiani, che negli anni riescono ad affermarsi anche con film di grande qualità, premiati sia dal pubblico che dalla critica, su tutti Gomorra e Il Divo. Nessuno però arriva all'Oscar. In 10 anni solo una candidatura, nel 2006 con Cristina Comencini per La bestia nel cuore. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Vi saluta qui Daniele Biacchiesi, le prossime notizie alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.